特にそうで、電化ピカ。スシャルコンチェ、a casa di Antonio, sarà neanche 500-600 metri di radio. Adesso l'ultimo passaggio sei venuto molto più chiaro. A volte ce l'hai un po' sporco il segnale, Antone. No, non lo so, ho toccato. Forse la ventola. Senti la ventola dell'alimentatore sotto di questo baracchino qua. Ecco, quest'ultimo passaggio era veramente sporco, non si sentiva bene. Non so se l'ho fatto io così male. L'alimentatore. Senti l'alimentatore che è sotto, capito? Adesso ho diminuito l'amplificazione del microfono. Quest'ultimo passaggio era benissimo per me. T'ho detto. È la ventola dell'alimentatore che c'ho sotto. Sto usando il 2009 in questo momento, non voglio bruciarmi il tornecco. Voglio stazionare, capite, qui preferisco bruciarmi il tornado, che ha più di 25 anni. Non lo brucia, non succede niente, Antone. Sì, è il 2009. Oggi ho sistemato questo, adesso domani sistemo l'altro. C'è un trimmer da cambiargli in ricezione, a volte funziona, a volte no. Se lascio tutto la sera acceso non ti valzi tutta. Dopodiché piglia e scende il segnale. Come fai? Infatti facciamo il tuo, mica lo qua. Ti cambio il trimmer e tu vedrai che esce un bombo. Perfetto. E la barra di più che altro il film è sporco. Ma allora te ne intendi, ma cosa c'hai, gli schemi per smanettarci? No, me ne intendo perché sono tecnico, gli apparecchi questi li conosco come le tasche mie, capito, Saturneco 2009, conosco 2005, eccetera eccetera, l'FM500S, 548SX, l'Intec 340, li conosco le moni e quindi so giostrarmi di tranquillo. Cavolo, che bello, bravo, complimenti. Passione ci vuole, passione. Io lo scambio di un bumbo. Quattro che faccio questo lavoro, cioè prima l'ho fatto come hobby, la verità, poi l'ho fatto come lavoro. Dopodiché è finito tutto, la mia culo, adesso nuovo come hobby. Quando ne voglia mi faccio la roba mia o di qualcun altro, se no niente da fare, piano San Antonio. Vabbè, ragione adesso, quello qua ho detto una cosa scherzosa. A me mi ha aggiustato, mi ha fatto l'MP+4, le connessioni, ma me le ha fatte veramente bene, cioè professionale proprio. Bello, bravo, è un'arte quella lì. Anche io sono un po' appassionato di elettronica, ma non a questi livelli. Sì, io vabbè, non è che cosa, però andiamo su Gumacco pure io, mi ha aggiustato l'antenna, capito? Gamba. Ci vuole passione sulle cose, se c'hai passione impari questa cosa, è bella, hai capito? Fare sperimentazioni sui barattini, modificarli, roba del genere, hai capito? È bello per quello. Dove avrei passione. E questa è la vera, come si dice, uno che gli piace la radio, e questo è me, capito? Vedo che si bucarotti, che pigliano il cellulare così, la passione della radio, il CB, è questo, chi si bucarotti che prendono, ci installano CB Talk, sono solo bucarotti, che cosa c'è, grazie al cavolo, i chicci, te e arrivi, così allora faccio una telefonata, non arrivarci con l'antenna nei posti. Capo, il gusto è tutto lì. È quello che io le spiegavo a una persona. Molto oltre la tecnologia, ma ti dici quasi io. Cioè, a me mi piace arrivarci con l'antenna nei posti, non mi piace chi si aggazzata. Queste cazzate che usano a me, no? Di Cibitalk, dico, sono tutti gazzate, so. No, Cibitalk ce l'avevo anch'io, ma poi ogni volta che lo usavo me le mangiava la batteria. Io ho detto, cosa ce la faccio a cambiare batteria ogni 2-3 mesi? Io lo usavo tutti i giorni, passavo anche un'ora, un'ora e mezzo. Arrivato a un'ora e cominciava a scendere la batteria. Cazzo, io ho detto, ce la faccio a comprarmi batteria ogni mese? No, ho preso e l'ho sempre lasciato, poi non l'ho più usato, la verità. Cappa, è molto interessante. Antonio, packet ne hai mai fatto tu? Non ho capito. Questo packet, collegamenti computer con baracchino. No, la verità no. Si usava una volta, tu parli degli anni 2000, qualche cosa. Lanciavi il baracchino al computer e andava in packet, quelli della 27. Poi ormai sugli elevatori vanno direttamente in digitale, fa tutto il computer da solo, si fa i collegamenti, tu non fai altro che registrati e basta. Come progettata la cosa che sono passato in digitale, cosa non mi vale una gran cagata, la verità, perché uno l'apparecchio, cioè deve arrivarci con la soddisfazione, cioè, ma che senso ha andare su questi punti, ponti ripetitori, ecco, se non arrivi con l'antenna devi dire che arrivi nei posti, ma che senso ha, veramente? No, anch'io sono d'accordo con Antonio, infatti anche con Sguscio adesso appena ci facciamo il ponte riprendiamo a fare qualcosa in packet perché ci divertivamo un sacco, ma giusto per arrivare direttamente con l'antenna, capite? Ma non trovo il senso, il baracchino, deve essere il baracchino, il telefonino deve essere il telefonino, basta, non ha senso. Non ha assolutamente senso quello che stanno facendo, c'erano molti camionisti, c'erano, che si aggagliata, cioè, no, per me no, sono cavolate. Il baracchino deve essere con l'antenna e qualcosa da soddisfazione deve essere, che ci devi arrivare così, punto e basta, con le antenne. Sì, ma insomma, se ci unisci anche a chi piace, la trasmissione digitale è una figata. Io mi ricordo intorno al 2000 che con quei software riusciva ad arrivare in mezzo Europa e sono carini. Infatti adesso ho visto che qualcuno ancora lo sta rifacendo, ma sono pochissimi. Sì, ma carichi già l'applicazione e arrivi in tutti in di voi. Grazie. Ma vai, che non fa nessun senso, non va. Sono cose sensate. E cosa fai vedere? Queste ultime patentine che stanno prendendo adesso, cosa fai? Con un computer in varie cose. Cioè, alcune bande si va pure con. Per me la radio deve essere come una volta, appunto. Deve essere. Chi si cagà di Cibitalk, tutti quanti nelle per tutte pulite. Certo, io sono burlai, lo chicci, ti. Vai, finirà. Iuia. No, comunque è bello avere un po' di simplezza, in realtà. In cose 27 ci sono. Su canale 6 c'è. Basta avere un baracchino, inserisci il ponte, il ripetitore tipo Pagot si chiama. C'è propagazione, tu per dire da portatile, sei vicino a casa tua, dalla macchina, quindi chiami e stai usando il ponte tuo e ti fai il DX. Così. Il canale 6 c'è, cos'è detto? Sì, sul canale 6 in FM c'è. C'è un ripetitore che è della zona capito, Polonia, Ucraina, quella zona lì ci sono, ripetito di pallot ci sono, li usano spesso, capito? Tu schiacci, per dire, ti metti a palla, fai 1, 2, 3, 4 e ti senti la voce tua dopo un secondo, 1, 2, 3, 4, la voce tua. Tu se c'è un altro magari dall'altra parte, piglia, ti risponde, ciao, chi sei, come stai, ciao, chi sei, come stai, e devi stare così, capito? Però, ti fa la ponte un ripetitore, è simplex, però ti fa la ponte un ripetitore e ti fa il DX. Una volta finita con la propagazione, ciao, buonanotte, ti attacca la puppa. Capa, beh, io vi saluto. Faccio un sonno che non vedo manca a me. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao Anto, ci sentiamo, buonanotte. Ciao Antonio, buonanotte, alle prossime. Ciao ciao ciao. Beh, mi sa che ne parlo anch'io in codetti. Ci sentiamo domani, senti, a baracchino. Tanto già sono qua domani mattina, devo sistemare l'apparato grande. Così sistemo l'ecco e lo faccio di nuovo di funzionare. Se domani mattina domani sera sei qua, già ci sentiamo, così facciamo le prove. Ehi, a capo, volentieri Antonio. Buonanotte e buon lavoro domani mattina. Ciao, alle prossime. Ehi, ciao, ciao, alle prossime, stammi bene. Buonanotte.